what you see. Rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body. Move your body, move your body, move your body, move your body, move your body, rock your body. Rock your body, set my body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, rock your body, move your body, move your body, move your body, move your body. Bentornati come tutti i sabati sera, anzi se siete stati attenti un sabato da un po' di tempo a questa parte, un sabato sera sì e uno no perché è alternato con Basement Records, comunque questa è il sabato sera di Tonight Alive. Un bentornato a tutti e una buona serata a tutti qui da Dalai Lama, da Radio Wombat. E non potevo iniziare con nessun'altra canzone per il protagonista di stasera, ovvero Marshall Jefferson. Questo è veramente un inno totale della prima house chicagoana. Infatti il sottotitolo di Move Your Body è The House Music Anthem, l'inno dell'house music. È stato veramente un crack quando è uscita questa canzone a metà degli anni 80 e non potevo iniziare in altro modo. Mi è venuto in mente di fare questa puntata dedicata a Marshall Jefferson, visto che poche settimane fa ci ha fatto l'onore di venire a suonare a Firenze. E è uno dei miei miti e mi sono accorto che ancora non avevo fatto una trasmissione su di lui e quindi eccomi qua per ovviare a questa gravissima mancanza e per fare appunto insieme a voi, per passare una serata in omaggio a questo autentico mito vivente della musica elettronica odierna. Però come sempre, a inizio puntata, come vi dico sempre, ricordiamoci di noi, di Radio Wombat, e ricordiamo tutti i nostri canali per mettersi in contatto con noi, ovvero il sito che spero vivamente già conosciate, ovvero wombat.noblogs.com. postawombat.org, la nostra mail che è postawombat@insiberia.net e i nostri canali social che sono twitter.com/radiowombatfi e su Facebook facebook.com/radio-wombat-firenze. E allora ripartiamo subito a bomba con questo omaggio a questo autentico mito vivente, come avevo già detto. Marshall Jefferson nasce ovviamente a Chicago nel settembre del 1959, figlio di un insegnante e di un poliziotto. In quella sua fase adolescenziale, quello che più che altro regna nella Chicago di quegli anni è la noia. E la svolta per Marshall Jefferson, la vista della luce, si data nel 1983, quando i suoi amici per la prima volta porteranno Marshall al leggendario Music Box di Chicago a sentire quell'altrettanta leggenda, che poi è diventata leggenda con gli anni, si è apprezzato fino in fondo tutto il suo lavoro nonostante la prematura di partita. Appunto andava a sentire, l'avevano portato al Music Box a sentire quel grandissimo DJ che era Ron Hardy. Veramente, ne ho già parlato, ho già dedicato una puntata intera al grande Ron, andatevela a ricercare se vi interessa. E comunque quello è stato proprio un punto di svolta nella, come ci racconta Marshall Jefferson, perché tra lui e Ron Hardy musicalmente era partito subito un feeling, perché Marshall Jefferson si rese subito conto, appena andò la prima volta al Music Box, che quella musica era completamente diversa da tutto il resto che aveva sentito fino ad allora, e rimane totalmente folgorato dalla prima house, molto incrociata, anche abbastanza dura con la techno, si potrebbe dire. Poi è rimasto folgorato appunto da Ron Hardy, quando dopo un po' di gavetta deciderà che quella sarà la sua missione. Allora comprerà il suo primo sequencer e il suo primo sintetizzatore e inizierà a comporre e vuole comporre quella musica incredibile che sente al Music Box, suonata da Ron Hardy, che per il periodo era una cosa assolutamente mai sentita. Ora magari ci abbiamo fatto tanto più l'orecchio, però a sentirla così nei primi anni 80 quella musica doveva sembrare proprio una cosa completamente sconvolgente, un po' come sentire la prima techno di Detroit. Era proprio uno stacco totale rispetto alla musica che veniva suonata abitualmente anche nelle discoteche. Però ecco, per introdurre il primo pezzo di stasera, vi voglio proprio leggere le note di copertina del booklet contenuto dentro a quello che secondo me è uno delle raccolte assolutamente imprescindibili se si vuole conoscere un po' più a fondo la nascita della musica house. Sto parlando proprio di questa raccolta edita su Unisex Records, che è uscita un tot di anni fa, ormai penso una decina di anni fa, è appunto a nome di Marshall Jefferson, si chiama Move Your Body, The Evolution of Chicago House. E appunto volevo leggervi come introduzione a questo pezzo che vi farò sentire adesso, che è I Can Turn Around di Isaac Hayes, un pezzone soul della grande voce di Isaac Hayes. Appunto, cosa dice Ron Hardy nelle note di copertina di questo CD a proposito di Isaac Hayes? Dice, è impossibile, è veramente impossibile descrivere quanto abbia influenzato la scena I Can Turn Around di Isaac Hayes. È una cosa che ha proprio segnato totalmente i club di Chicago in quei giorni. C'erano DJ che questa I Can Turn Around la potevano passare in loop e far girare addirittura per 20 minuti, mezz'ora nello stesso set, perché poi tagliata, ritagliata e modificata con la nobile arte del DJing, poteva andare avanti all'infinito. E quindi, appunto, questo è un omaggio doveroso, anche solo per capire da dove stiamo partendo. E poi, appunto, Marshall Jefferson ricorda il momento in cui questa I Can Turn Around di Isaac Hayes verrà tagliata in uno storico, veramente storico re-edit da Farley Jackmaster Funk, che ne farà Love Can Turn Around, prodotta insieme a Jess Saunderson nel 1986, e fu veramente un crack questo taglio del grande pezzo di Isaac Hayes. Però vale la pena di ricordare che il primo taglio su I Can Turn Around di Isaac Hayes è stato quello sempre del 1986, a nome J.M. Silk, sempre con chiamata I Can Turn Around, il taglio fatto da un altro grandissimo della prima house chicagoana, ovvero da Steve Silk Harley, e viene pubblicato a nome J.M. Silk dalla RCA Victor, e quello è stato il primo taglio, appunto, di questo grandissimo pezzo di Isaac Hayes, che poi finirà nel taglio definitivo, nella re-edit definitiva dei Farley Jackmaster Funk qualche anno dopo, Love Can Turn Around, che avrà talmente tanto successo che finirà addirittura nelle classifiche generaliste, decima in Inghilterra e quindicesima negli Stati Uniti. Però per voi, per questo primo pezzo di stasera, nella puntata dedicata a Marshall Jefferson, non potevo essere più fortunato, e ho trovato, appunto, questa I Can Turn Around di Isaac Hayes nella edit che Ron Hardy fece per i suoi set al Music Box degli inizi anni 80. Quindi penso che non si poteva partire proprio altrimenti, e questo è Isaac Hayes con I Can Turn Around nel taglio di Ron Hardy per il Music Box di Chicago, Radio Wombat, Tonight Alive. Oh, no more days and lonely nights, 'cause you changed my whole life. I said, no more days and lonely nights, 'cause you changed my whole life. I said, you gave me what I needed so bad. Now that I've got it, I'm so glad. I want to turn around. I said it's like Thank you. da questa edit poi è stata rieditata e pubblicata una decina di anni fa, quando poi sono state ritrovate appunto le bobine delle re-edit di Ron Hardy al Music Box, poi sono state pubblicate e abbiamo avuto appunto la fortuna di poterci godere di tantissimi re-edit o remix di Ron Hardy, che vale la pena di ricordare che è stato uno dei primi DJ insieme a Frankie Knuckles, che proprio creavano i remix e i re-edit sul momento durante i DJ set, mettendo insieme ai dischi, usando quello che si chiama il reel to reel in inglese, ma che non è nient'altro che un registratore a bobine con dentro appunto degli stacchi già preregistrati, permettevano appunto di far andare avanti un disco sapendoci mettere le mani. In questo caso sarebbe potuto andare avanti per chissà quanto questa edit di I Can Turn Around di Isaac Hayes, e quindi questo un primo giusto tributo a forse la più grande ispirazione di Marshall Jefferson in quell'inizio, che è appunto Ron Hardy. Infatti poi quando inizierà a produrre Marshall Jefferson, da lì a qualche anno, i suoi primi lavori, il primo DJ a cui li porterà sarà appunto Ron Hardy al Music Box di Chicago. Ma sicuramente un'altra grande ispirazione per questa fase iniziale di Marshall Jefferson è il già nominato ed altrettanto grande DJ di Chicago, Frankie Knuckles, che ha dato sicuramente un'altrettanto grande ispirazione a Marshall Jefferson per la sua idea di musica, e come appunto andava a sentire Ron Hardy al Music Box, altrettanto faceva andando a sentire Frankie Knuckles a suonare appunto al Warehouse di Chicago nella prima parte degli anni Ottanta. Giusto per far capire il livello per chi non avesse seguito la puntata su Frankie Knuckles, la house si chiama appunto house proprio perché Frankie Knuckles suonava nella sua fase iniziale degli anni 80 al Warehouse di Chicago, e poi come ben sappiamo passerà al Power Plant sempre di Chicago, una discoteca ancora più grande e proprio pensata e ideata in ogni singolo dettaglio per esaltare le doti di Frankie Knuckles. E appunto il prossimo pezzo è sempre un pezzo di introduzione per far capire appunto com'era la scena prima della musica cosiddetta early house, che era diciamo, si può dire che era un po' la fine della disco, perché ufficialmente il primo pezzo house della storia, come amo ripetere, è On and On di Jess Saunderson del 1984, e appunto per introdurvi questo pezzo che vi farò sentire adesso, che con doveroso omaggio è un Frankie Knuckles remix di appunto questo pezzo epocale della disco, che è Let No Man Put Us Under dei First Choice, tra l'altro prodotta anche e mixata da in parte mixata da Frankie Knuckles. Questa Let No Man Put Us Under è un pezzo del 1983 uscito sulla storica etichetta disco della Soul Soul Records, e la versione originale del pezzo dei First Choice è mixata dall'altrettanto leggendario Shep Pettibone, che se vi ricordate nella puntata di Frankie Knuckles era il DJ di una delle delle stazioni radiofoniche più importanti per la prima musica elettronica in America, e appunto poi di questa versione di questo pezzo epocale dei First Choice mixato da Shep Pettibone, lo stesso Pettibone e la Soul Soul Records daranno l'onere e l'onore di fare un remix sul lato B a Frankie Knuckles, e questo è proprio il pezzo che ci andiamo a sentire adesso, ovvero First Choice, Let No Man Put Us Under, nel Frankie Knuckles remix 1983. Radio Wombat, Tonight Alive. We'll be right back. Questo era il pezzo storico disco, uno dei dischi proprio fondamentali della scena finale disco, fatto appunto dai First Choice, Let No Man Pull Us Under, qui nel remix di Frankie Knuckles, 1983, assoluta pietra miliare della Salt Soul Records. Ma andando avanti, appunto, arriviamo nel 1986, che sarà proprio l'anno in cui Marshall Jefferson verrà incoronato re della prima house, o anche, come ama definirsi, the godfather of house music, proprio il padrino della musica house. Però, come sappiamo, un po' tutti quelli della prima scena amano definirsi o il re o il padrino, insomma. Però Frankie Knuckles, appunto, ama definirsi il padrino della musica house, e questo 1986 proprio lo vedrà in fiamme, come si suol dire, con una serie di produzioni e collaborazioni che diventeranno proprio delle pietre miliari del genere. Crea insieme, in quel 1986, crea insieme a Vince Lawrence l'alias Virgo, su cui regnerà sempre un alone di mistero. Infatti, se sarà Lawrence a produrre il seminale Go Wild Rhythm Tracks, 8 tracce ritmiche spettrali che segnano uno dei picchi underground dell'house, la ragione sociale Virgo passerà a Mervyn Sanders e a Eric Lewis per un album appunto a nome Virgo, e per un 12 pollici a nome Virgo 4. Ma Marshall Jefferson userà appunto questo nome nella sua prima fase per siglare i credits di qualche sua appunto prima produzione, oppure proprio per produrre insieme ad Adonis lo storico Free Yourself EP, sull'altrettanto leggendaria etichetta di musica elettronica Trax Records di Chicago. E questo Free Yourself EP dell'86 è proprio un'altra pietra miliare. Sono 4 tracce visionarie che gettano un abisso infernale tutto e precipitano tutta la house primordiale in un inferno, appunto. E è prodotta insieme a Adonis, che vale la pena di ricordare è un altro dei grandi, dei prime mover della prima scena house, anche se ovviamente viene ricordato per i suoi lavori in ambito acid, e si dà usa appunto per il suo uso stentato della Roland sui bassi, con questo settaggio tanto vale ricordare inventato da DJ Pierre con i suoi Future, con AC Trax. E però Adonis sarà un altro grande appunto della musica acid, tanto vale ricordare due suoi storici 12 pollici, sempre di quell'anno di grazia 1986, che sono No Way Back e We Are Rocking Down the House, sempre su Trax Records. Ma appunto, ritornando al progetto Virgo, che ricordo è in questo specifico pezzo che vi metterò adesso, estratto dal Free Yourself EP dell'86, in questo caso è Are You Hot Enough, è una collaborazione appunto tra i due. Dimenticatevi tutto il cantato, tutta la musica molto derivata dalla soul, e ascoltiamoci appunto questa traccia acidissima, nome Virgo, Are You Hot Enough, 1986, Radio Wombat, Tonight Alive. E questa appunto era Are You Hot Enough di a nome Virgo, prodotta appunto da Marshall Jefferson in collaborazione con Adonis. E questo diciamo che ha i primi prodromi, come si suol dire, dell'acid house, che è un versante della musica house che, come vedremo a brevissimo, Marshall Jefferson si divertirà appunto a sviluppare in questa sua prima fase produttiva. E appunto, il prossimo pezzo, che anche questo è un pezzo assolutamente storico da discoteca, è nato appunto come divertissement, come si suol dire, e pensate un po', è appunto scritto e creato da Marshall Jefferson in collaborazione con un'altra autentica leggenda, anche lui mai troppo esaltato e mai troppo cantato. Infatti, spero poi nel futuro di poter fare una trasmissione interamente dedicata a lui, ovvero fatta in collaborazione con quell'altro geniaccio di Chicago che è Lil Lewis, che in questo caso, per questo pezzo, è al banco del mixer con la voce Hercules e Marshall Jefferson appunto alle macchine a creare questo che poi diventerà uno dei pilastri del ramo acid della house. Tra l'altro, anche questo, sempre uscito nel 1986, sarà l'uscita numero 2 per un'altrettanto storica e fondamentale etichetta della musica elettronica come la Dance Mania, di cui questa appunto è l'uscita numero 2. In questo progetto, che appunto si chiama Seven Ways, è un po' il divertissement, come avevo detto prima, di Marshall Jefferson e Lil Lewis, che con questa canzone vogliono tentare almeno di spiegare come si fa a ballare la house o l'acid house, se secondo loro. E questa appunto è Seven Ways nella versione del Club Mix, Seven Ways di Hercules, prodotta da Marshall Jefferson e Lil Lewis. Tonight Alive. Number one, visually touch the body in front of you, caress it with your eyes, drink it in slowly. Number two, close your eyes, remember the body you've just seen, then slowly undress it. Number three, reach out and without touching, show what you want to do to the body in front of you. Seven ways I'm going to move your soul. Seven ways we're going to lose control. Seven ways and we'll give no slack. Seven ways to make you jack. We'll be right back. nobody in front of you. Number five, rhythmically move your body to the beat. Number six, physically touch the body in front of you in every way imaginable. Number seven, lose complete mental control and begin to check. Seven ways I'm going to move your soul. Seven ways we're going to lose control. Seven ways and we'll give no slack. Seven ways to make you jack. Questa appunto era l'allucinata Seven Ways di Hercules nella versione club mix, e appunto sempre in questo anno di grazia 1986, appunto come già detto Marshall Jefferson supervisiona la stesura definitiva di Acid Tracks dei Future, che è appunto considerato il primo pezzo Acid House, e sempre insieme ad Adonis coproduce il prossimo pezzo che ci andremo a sentire, ovvero I've Lost Control di Sleazy D, che è proprio considerato l'apice allucinatorio e brutale di tutta la scena Acid House. Qui è proprio l'apice uno degli apici, via, dell'Acid House, che ha raggiunto l'acid house, secondo me, e questo è proprio un pezzone della Madonna del genere. E se in queste ultime due pezzi magari si poteva sentire un inizio, questo è proprio il pezzo definitivo dell'acid house, come ci racconta appunto Marshall Jefferson nelle note di copertina appunto del suo CD. Come dicevo prima, questo è uno dei pezzi che, dopo che l'aveva finito di produrre e registrare, prima di appunto farlo editare, come tantissimi produttori, l'aveva portato al DJ, ai DJ, per vedere se funzionava sul dance floor. In questo caso, appunto, finita la stesura e la registrazione insieme ad Adonis di I've Lost Control, per provarlo sul dance floor, ha portato un dub plate, una white label nella prima stampa di questo pezzo, l'ha portata al music box per farlo testare a Ronardi, e ci racconta appunto Marshall Jefferson che quella sera al music box venne giù tutto, e non si sa quante volte Hardy ha suonato quel pezzo quella sera, ma per farvi capire di cosa stiamo parlando, andiamocelo subito a sentire questo I've Lost Control di Sleazy D, prodotto da Marshall Jefferson e Adonis. Radio Wombat, Tonight Alive. Control. Questa appunto era la storicissima Have Lost Control a nome Sleazy D, prodotta appunto da Adonis e da Marshall Jefferson, un pezzo assolutamente fondamentale. Ci risento tantissimo la scena, la prima scena techno romana, specialmente Leo Anibaldi, oppure le produzioni più dark di Fierro o di Fassarani. Sicuramente la scena romana techno è stata molto influenzata da questo pezzo Acid, che appunto è molto al limite fra house e techno. Si può dire che sia praticamente quasi techno, appunto. Però rifacciamo un passo indietro, sempre in questo super produttivo 1986 per Marshall Jefferson, perché appunto nell'86 esce anche quella che è stata la sigla di stasera, ovvero Move Your Body. E appunto Move Your Body, uscita su DJ International nella sua versione originale da 10 minuti, per essere poi ripubblicata su Trex Records come The House Music Anthem. L'unico titolo che poteva spiegarne la classicità, appunto, The House Music Anthem è proprio... la sigla di stasera è proprio l'inno, considerato l'inno della musica house, appunto, ma mi piaceva farvelo sentire dopo questo pezzo che proprio rappresenta le due anime di Marshall Jefferson, quella più soul, che è quella della sigla o delle sue produzioni più garage, oppure anche questa parte più dura con questi ultimi pezzi che vi ho fatto sentire, quelli a nome Virgo, Hercules o addirittura questa poi a nome Slazy D, è incredibile. Ma mi piaceva farvi sentire appunto queste due anime. Ma ritornando appunto a Move Your Body, Frankie Knuckles a un certo punto, visto il grandissimo successo di questo pezzo, provò anche a rivendicarne al suo tempo una sua coproduzione, però i credit iniziali sul 12 pollici parlano di un Curtis McLean alla voce, Virgo, ovvero Marshall Jefferson, alla produzione, e per la versione poi uscita su Trex, quella a nome The House Music Anthem, appunto, c'è anche il mixaggio di Ron Hardy. Sta di fatto che appunto Move Your Body è una sorta di annunciazione house che la consegna all'eternità. Uno stomp house basato su un fiammeggiante piano, un coro contagioso e una ritmica proprio che diventerà un prototipo del genere. Racconta appunto Marshall Jefferson nelle note appunto della famosa raccolta di Chicago House, che anche Move Your Body, per testarla sul dance floor, ne portò una copia a Ron Hardy al Music Box, e fu una cosa sconvolgente quella sera per la gente, perché era piaciuta talmente tanto al Music Box quel pezzo che si racconta che Ron Hardy quella sera ha rimesso su il Move Your Body ben 6 volte all'interno dello stesso set, ecco. E questo, insomma, la dice lunga. E perché questa Move Your Body è proprio è fatta da suoni imponenti, da una teatralità celebratoria quasi tronfia, si potrebbe dire, ma assolutamente, assolutamente efficace. È un pezzo diretto che grida la sua comunicatività e sembra servire su un piatto d'argento tutto il senso di quel nuovo linguaggio afroamericano che è la musica house. Move Your Body sbancherà anche in Europa e in tutto il mondo, e farà diventare l'house proprio un suono planetario che supererà i confini dell'underground. Un paio di anni dopo gli italiani e gli inglesi avrebbero ripreso l'uso della piano house, appunto, europeizzandola. Appunto, poi un altro piccolo dettaglio sempre di Move Your Body è che leggende narrano che dopo quella sera che portò questa first press a Ron Hardy, e Ron Hardy la mise 6 volte, cioè dopo quella sera praticamente Marshall Jefferson dopo aveva mezza Chicago attaccata alle spalle, diciamo, tra virgolette, perché tutti volevano quel pezzo e tutti racconta che tutti lo martellavano per avere una copia di quel pezzo che aveva appena inciso, e dopo, diciamo, tra virgolette, parecchie pressioni, la seconda copia andò appunto a Frankie Knuckles, quello, ormai suonava già al Power Plant, però insomma la seconda copia di Move Your Body, dopo tantissime pressioni, finì nelle mani di Frankie Knuckles. E poi nell'anno successivo usciamo da questo leggendario 1986. Nell'anno successivo, nel 1987, produrrà una delle più grandi canzoni dell'epopea aurea dell'house di Chicago, questa volta molto più legata al suo lato soul, quindi lasciamo questi suoni così duri, e appunto produrrà la leggendaria Someday per la stupenda voce di Cissy Rogers, una delle storiche prime voci della house chicagoana, e questa Someday è veramente uno squarcio della nuova sensibilità soul con cui Cissy Rogers si perderà dentro l'utopia attraverso quel riff di piano così struggente e tragico da diventare un topos del genere, appunto soul house o piano house, come si voglia dire. E appunto poi ricorda, sempre nelle note di copertina, Marshall Jefferson, che inizialmente quel giro di piano l'aveva suonato a 40 bpm per poi velocizzarlo in fase di post-produzione, ma questo pezzo proprio rappresenta anche questo uno degli apici del genere soul house, con questo pezzo che sembra proprio scritto e tagliato apposta per la tragicità e il soul della voce di Cissy Rogers. E appunto non ci rimane altro che andare a sentire questo pezzo del 1987, uscito su Trax Records, un altro pezzo di storia, Someday di Cissy Rogers. Tonight Alive, Radio Wombat. Thank you. questa appunto era Someday di CeCe Rogers nella versione del singolo a 12 pollici del, questo era il club mix appunto del singolo 12 pollici originale, bellissima tra l'altro, un pezzo da lacrime, mi piace tantissimo. E appunto, ma ritorniamo a Marshall Jefferson e non facciamoci prendere dall'emozione. E sempre in quel lasso di tempo tra il 1986 e il 1987, Marshall Jefferson incide anche i due primi classici dischi a nome Jungle Wants, che poi un terzo 12 pollici, Bird in a Gilded Cage, seguirà poi parecchi anni dopo, nel 1993. E questi primi due classici a nome Jungle Wants sono The Jungle e Time Marches On, con appunto alla voce Harry Dennis. E sicuramente The Jungle è un lampeggiante affondo in quella di pause vocale che in parallelo veniva sviluppata anche da Larry Heard insieme all'altra grandissima voce soul dell'house music, ovvero a Robert Owens. E ascoltiamoci appunto questa The Jungle di Jungle Wants per andarci a sentire, come già detto, la risposta di Marshall Jefferson al suo amico Larry Heard e all'altra grande voce di Robert Owens. Invece questa è appunto Jungle Wants con The Jungle, con alla voce Harry Dennis e alla produzione il grande Marshall Jefferson, 1986, Radio Wombat. Dark without no light, the sun goes down, you better be homewards bound. reptiles slithering through the grass, gazelles hopping past, monks and chimps, trying to see who has, but home you better get too fast. Scream in the air, where's my baby, people flying everywhere, bodies in the street, police start to beat, it's not an easy feat. In the jungle or in the city, you better be home before the sun goes down. There's no pity, be wise or witty. In a world of despair, paradox between jungle and city. Questo appunto era The Jungle a nome Jungle Wants. E se appunto questa, se appunto questa The Jungle è classica, la prossima a nome Jungle Wants, Time Marches On, va decisamente oltre, varcando la bellezza accecante dell'allucinazione. Basti ricordare le parole che Dennis dice nella canzone: you can live, you can die, and no time to wonder why. Life is short, life is long, we have a choice to live or die. E questa è l'altro classicone a nome Jungle Wants, 1987, Trax Records, nella sua vocal mix Time Marches On. Jungle Wants, Radio Wombat. If you can live, you can die. There ain't no time to wonder why. Life is short, life is long. We have a choice to live or die. Ideas will be passed through your ears the older you grow. Come on now, let's get to know. Questa era Time Marches On a nome Jungle Wants, del 1987. Però passiamo all'anno successivo, nella cosiddetta seconda estate dell'amore, nel 1988, l'anno dell'esplosione a Ibiza dell'acid house. E in questo 1988 Marshall Jefferson centra il bersaglio con due hit, con due singoli. Il primo è questo a nome Marshall Jefferson Presents the Dancing Flutes Do They Do, che è uscita appunto nell'88 in America per l'etichetta Underground Records e distribuita in Europa per la West Side Records britannica. E questo è un pezzo che ha sicuramente acid, però anche molto mentale, e quindi possiamo quasi metterlo in quella linea di demarcazione tra appunto l'acid house e la deep house. E l'altra hit del 1988 sarà Open Your Eyes, scritta con Byron Stingley, una delle tre voci nere del trio appunto Ten City, che ritroveremo più tardi. E adesso sentiamoci appunto questa Do The Do di Marshall Jefferson Presents The Dancing Flutes, 1988, Tonight Live, Radio Wombat. I'll take it. un deciso ritorno in territori acid per questa Do They Do di Marshall Jefferson del 1988, ma nell'anno successivo, 1989, appunto, come mai vi ho introdotto prima i Ten City? Perché nel 1989 appunto inizia questa collaborazione con Byron Stingley, voce del trio Black Ten City, in cui nel quel 1989 Jefferson ne produce totalmente il primo e anche unico album mai pubblicato dai Ten City, appunto combinando la tradizione del Philly Sound con lo slancio dell'house music. Il disco Foundation è sicuramente un capolavoro, e singoli come la classica Devotion sono fusioni esemplari di soul, pop e house, e sicuramente entra nella storia di quegli anni. E dopo questa prima impressionante fase della sua carriera, Marshall Jefferson sicuramente varca gli anni 90 incoronato come un re. Il suo stile multiforme e innovativo ha già abbattuto diversi steccati, e l'house music è diventata tale grazie al suo contributo fondamentale. E appunto adesso andiamoci a sentire questo il singolo preso da appunto da Foundation, edito su Atlantic, addirittura su una major. Però volevo farvi sentire questo singolo non nella sua versione originale, ma in uno dei mix contenuti nel 12 pollici poi fatto uscire come singolo. E in questo caso ci stiamo per andare a sentire appunto il The Voice of Paradise mix di Devotion dei Ten City. Il Voice of Paradise mix che appunto è mixato da Parrot e da Robert Gordon. E appunto andiamoci a sentire questa Devotion dei Ten City, prodotta da Marshall Jefferson, completamente prodotta da Marshall Jefferson, ma in questo caso nel The Voice of Paradise Mix 1989, Tonight Alive. E non so se ci avete fatto caso, però questa, come mai ho voluto mettere il The Voice of Paradise Mix? Perché se ci avete fatto caso anche voi, cioè, l'inizio è praticamente Firestarter dei Prodigy, dove i Prodigy hanno preso appunto rullante basso e ci hanno fatto praticamente Firestarter poi a fine anni 90, inizi 2000. Però quel sample veniva appunto dal The Voice of Paradise Mix di Devotion dei 10 City. E appunto negli anni 90 Marshall Jefferson non sarà più un rivoluzionario come negli anni 80, ma sicuramente porterà in paradiso quel senso dell'house con una serie di lavori magari poco conosciuti, ma sicuramente preziosissimi. La nuova vena jeffersoniana esplode in una serie di produzioni che incorporano il lavoro fatto con la produzione del disco dei 10 City, quello proprio nel ricreare una miscela perfetta tra soul, pop e house, ma che sicuramente si distanziano da quel modello per mille altre sfaccettature diverse. Magari pezzi sospesi in un limbo grazie a quelle iniezioni di deepness maturata nei progetti come Jungle Wants e poi creati e modificati da una mentalità libera assimilata girando per il mondo. Sicuramente è una forma di garage house cosmopolita, sempre collegata a pensieri e a moduli sicuramente appunto legati a quelli della vecchia Chicago House, però distante, in realtà molto distante dalla formula newyorkese che in quegli anni ha preso piede. Però questa forma creata da Marshall Jefferson sembra proprio perfetta per esplodere in Europa e nel mondo intero. Infatti in questi anni 90 Marshall Jefferson, oltre a remixare un pezzo per i Pet Shop Boys, soprattutto si trasferisce dalla natia Chicago a Londra, e qui parte la sua nuova fase degli anni 90, in cui appunto da lì a Londra innanzitutto diventerà uno dei DJ resident del leggendario Ministry of Sound, e oltre a questo si esibirà anche nei primi storici rave del Tribal Gathering e anche del Big Love rave, di cui tra l'altro era uno degli organizzatori. Però per focalizzare appunto questo suo periodo degli anni 90, io vi farei sentire questo pezzo a nome Marshall Jefferson and Keith Thompson, Present Idol Plus Wild, e questa è Far Behind nella Radio Edit. Sempre in quegli anni 90, in ambito strumentale, Marshall Jefferson lavorerà a una serie di produzioni più dure, al di fuori appunto della Garage House, che culmineranno nell'album Day of the Onion, il giorno della cipolla, pubblicato nel 1996 dalla tedesca KTM, che è tutto un pulsare di stomp che ti lavorano ai fianchi e ti tolgono il respiro. Però continua anche con produzioni appunto più soulful, tipo questa ultima Far Behind insieme a Keith Thompson, oppure con anche momenti di pura estasi da dance floor, come il remix di In the Heat dei Global Mind featuring Daisy Moore, che è una canzone italiana praticamente mandata in paradiso house, piena di sogni latini e voluttuosità da Riviera Romagnola. Oppure un altro grande lavoro di questo fine dei 90, che è Love Hearts di Paris Red, che è praticamente una scheggia di piano house agli steroidi, una perfetta visione degli anni 2000 del sound di Philadelphia, così pieno di fiati. Ma andiamoci a sentire la In the Heat dei Global Mind featuring Daisy Moore, ovviamente nel remix di Marshall Jefferson, anno di grazia 1995. E questa era In the Heat di Global Mind featuring Daisy Moore nel Marshall Jefferson remix del 1995. Sembra altro che 1995, sembra anche molto più attuale come tipo di suono. Però appunto Marshall Jefferson entra nel XXI secolo rallentando parecchio l'attività produttiva, giustamente, e ritagliandosi qualche spazio come DJ, soprattutto a Londra, dove nel gennaio del 2005 lancerà la serata Fathers of House in collaborazione con i tipi del Pascià di Ibiza, ed entra nel XXI secolo con il solito portamento aristocratico e con le stimmate e l'eleganza inarrivabile di una leggenda come chi è stato fortunato e ha potuto apprezzarlo qualche settimana fa qui a Firenze. È venuto appunto a suonare il Godfather of House Music. E quindi siamo giunti a questo punto, siamo arrivati alla fine. Però prima di salutarvi volevo come sempre presentarvi il live, in questo caso il DJ set di stasera di Marshall Jefferson. In questo caso, guarda un po', sono riuscito a recuperarvi il set di Marshall Jefferson al Tribal Gathering del 1996. Come già detto, il Tribal Gathering è forse il più famoso rave degli anni 90 in Inghilterra. Il primo Tribal Gathering è dell'aprile del 1993, avvenuto in totale assoluta clandestinità nel bel mezzo della campagna del Wiltshire in Inghilterra, davanti a 25.000 raver che aspettavano solo quel momento per sentir suonare Laurent Garnier, Carl Cox, Slipmat, The Do It Yourself Sound System e Pete Tong, che poi diventerà appunto il DJ delle Essential Mix della BBC. Ma appunto questo è il Tribal Gathering del 96, avvenuto a giugno, assolutamente. Cioè si è istituzionalizzato, ma ancora nella fase, penso, completamente illegale. Stavolta avvenuto a Luton Hoo, nel Bedfordshire, davanti a 30.000 persone, e insieme a Marshall Jefferson in quei giorni suonarono, in quelle notti, suonarono anche i Left Field, i Chemical Brothers, i Black Grape, Goldie, i Daft Punk, e anche tanti altri, insomma tutta roba di primo livello. Il Tribal Gathering poi ha avuto ovviamente una parabola commerciale, per poi chiudere definitivamente i battenti nel 2006. E per stasera è tutto, il vostro Dalai Dama vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo sabato con Basement Records, e tra due sabati con Tonight Alive. E adesso vi lascio al DJ set di Marshall Jefferson al Tribal Gathering del 1996, in quel giugno del 1996. Un buon sabato sera a tutti e che la festa continui. Radio Wombat, Tonight Alive. All we hear is Radio Wombat.